5 di mattina una stazione, la nebbia sembra un lento temporale, il vento segna il volto come spine, ma io disarmo il freddo perché tu sei con me, tu sei con me, tu sei con me, tu sei con me, e io mi sento invincibile. Un altro aereo sta per decollare, ma il cuore resta a terra ad aspettare. Non è che ha paura di volare, è solo che non vuole mai partire. Tu sei con me, tu sei con me, tu sei con me. È solo un altro giorno, tutto si muove intorno, anche se il mondo è un gran casino, tu respirami vicino e mi vedrai spiccare il volo. Mi serve un altro giorno per costruire un mondo dove è facile guardare nella stessa direzione, nei tuoi occhi, e ritrovare un po' di me. Guardo le finestre illuminate, ognuna che racchiude tante storie. Chissà se si fa guerra o si fa pace, intanto io continuo a camminare. Tu sei con me, tu sei con me, tu sei con me, tu